Speedy Top, la classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su CRM Happy Radio. Buon pomeriggio signori, buon pomeriggio, rieccovi al consueto appuntamento con Speedy Top in compagnia di Fabio Di Liberto fino alle 17 in questo caldo pomeriggio del 25 luglio. Stiamo per salutare anche questo mese estivo, stiamo proprio per aspettare l'anticiclone africano che ci accompagnerà fino a dopo Ferragosto. Stiamo aspettando Caronte che ci accompagnerà con 40 gradi purtroppo. Però è una cosa molto positiva perché il caldo ci aiuta, in quanto sudando si smaltisce di più. Magari chi è ancora intenzionato a fare diete può continuare benissimo. E inoltre l'acqua è piacevole. E noi di CRM vi accompagniamo i vostri tuffi con la bella musica. Infatti Speedy Top è un programma che si occupa appunto delle migliori canzoni trasmesse in tutta l'estate, i dischi più venduti d'estate, le canzoni che fanno ballare nei lidi. E quindi noi iniziamo subito con la posizione 20 di oggi. Questa è Dreamers. 20. We'll be right back. to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it, Icona Pop, tormentone estate 2013, Daft Punk, e a cantarla è il gruppo svedese in collaborazione con Charlie XCX. Inizialmente il brano è uscito solo in Svezia, poi ha ottenuto un grandissimo successo in tutto il mondo, tanto da essere diventato sigla del programma MTV Snooki & Vove e di una nota marca di smartphone anche nel nostro paese, che non possiamo dire. Inoltre è stata scelta come colonna sonora di un videogame del 2012, Need for Speed Most Wanted negli USA, e solo in America ha superato addirittura 1.200.000 copie. Veramente bella musica pimpante, carica. Ma intanto vi ricordo che potete seguire il nostro programma su www.crmhappyradio.it, dove il segnale FM dei 101.4 non dovesse arrivare. Potete diventare fan della nostra pagina Facebook CRM Happy Radio e ovviamente interagire con noi, fare le vostre richieste, darci consigli, introdurre argomenti, insomma fate voi. Oppure SMS al 335 56 37 251, o telefonate allo 0921 92 32 92. Io approfitto intanto per salutare Rambo, che è un nostro consueto ascoltatore, mi ha chiamato poc'anzi. Grazie Rambo per la tua sempre presenza, e continuiamo con la nostra classifica. Siamo alla posizione 18. Sapore di sale, sa sa sapore di sale, sa sa sapessi che storie, sa sa sapessi che storie. Guardala che mare, qua qua guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Sa sa sa, prova costume, in questa ebbrezza che accarezza come piume. Metto via il piumino, prenoto il lettino, gonfio il materassino e abbasso il finestrino. Per arrivare prima mi alzo di primo mattino, ma quando sono lì mi diverto come un bambino, perché stare qui è divino. Sono così rosso, posso sembrare in gotta di vino. Sapore di sale, sa sa sapore di sale, sa sa sapessi che storie, sa sa sapessi che storie. Guardala che mare, qua qua guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Camicia bianca e occhiali, roba seria, ho visto più fondali, marini di Valeria, l'estate in gonde, con il suo calore, sta a te capire qual è il posto migliore. Prendo un'estate al limone, che sotto sotto questo sole si muore, picchia sulla testa, c'è bisogno di un aule, ma è sapore di sale, come Gino Paoli. Saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne, da pesca, Rihanna con l'ombrella, ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Vai, saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne, da pesca, Rihanna con l'ombrella, ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Sapore di sale, sa sa sapore di sale, sa sa sapessi che storie, sa sa sapessi che storie. Guardala che mare, qua qua guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Sapore di sale, sa sa sapore di sale, sa sa sapessi che storie, sa

La vera novità è che quest'anno molti giovani hanno voglia di fare esperienze lavorative all'estero per periodi lunghi, anche oltre i confini europei. La meta più richiesta per fare queste esperienze lavorative, magari già lo sapranno tutti, è Londra. Però piano piano si va facendo strada anche l'Australia, con programmi che consentono di lavorare e imparare la lingua. E sorprendentemente anche l'India, con una permanenza addirittura che non si limita ad una sola settimana, ma anche ad un mese. E infatti i corsi di lingua vanno raddoppiando, perché sappiamo che l'inglese è importantissimo, anche perché ci dà la chiave per spostarci, per avere più opportunità lavorative. E chi sceglie di visitare le capitali europee sceglie Barcellona, Londra e Parigi. Invece chi rimane in Italia, per il 34% dei casi va verso la Puglia, verso il Salento, segue la Sardegna con il 25%, la Calabria con il 17% e purtroppo infine la Sicilia con il 15%. E la sistemazione preferita rimane l'appartamento, con una spesa media di 300 euro a persona. Comunque chi va a Londra, sicuramente in Inghilterra, troverà tanti italiani, tanti conterranei siciliani che sono lì o solo per viaggio o anche per lavoro, per perfezionare o addirittura imparare la lingua. E noi invece rimaniamo qui nella nostra bella Cefalù, che amiamo tanto, e cerchiamo di portarla avanti nel migliore dei modi. E noi di CRM lo facciamo con la bella musica e continuiamo con la posizione numero 16. Cosa ti aspetti da me? Prenditi soltanto quello che c'è e stai sul mio sudore, che ci pentiremo poi e in paradiso non faranno entrare noi. E bruceremo insieme, mandiamo in fiamme tutto quanto. A fuoco, vediamo che succede, vediamo chi si fa più male. Toglimi ogni respiro che ho nel mondo, in questa stanza. Lasciami solo il profumo che hai su questa bocca stanca. Non voltarti quando vai, qui non c'è altro, torna un giorno casomai. E andremo ancora a fuoco e bruceremo insieme le braccia come due catene. Vediamo che succede, vediamo chi si fa più male. Perché siamo nati soli, anime attaccate ai muri, siamo vivi solo per esplodere. E bruceremo insieme, mandiamo in fiamme tutto quanto. A fuoco,

start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Our love. Con questa bellissima canzone dei Pink salutiamo tutto lo staff della parruccheria Raimondi che ci ascolta ogni giovedì. Ciao a tutti e buon lavoro. E intanto vi annuncio alcune, diciamo, vi do ecco, alcuni consigli riguardanti l'alimentazione sana che dovremmo seguire in estate. O meglio, 10 cibi estivi freschi e genuini che non dovrebbero mancare nella nostra spesa tra luglio e agosto. Infatti l'estate arriva e abbiamo bisogno di cibi freschi, facilmente digeribili. Come magari qualcuno avrà potuto notare, a me piace molto occuparmi di alimentazione. Quindi i 10 cibi estivi che non dovranno mancare mai sono i cereali, che ottimi alimenti estivi, ideali per la colazione, e hanno, diciamo, sono molto utili per i capelli. E infatti in estate i capelli sappiamo che si rovinano facilmente, contengono anche molto ferro, molto zinco e molti sali minerali. Poi abbiamo il tacchino. Il tacchino è diciamo una carne molto leggera e contiene anche molte proteine magre e nutrienti. E infatti magari per chi è fuori, per chi mangia fuori e opta per un panino imbottito, magari meglio un panino con un prosciutto di tacchino. Poi abbiamo i pomodori che contengono molti antiossidanti e essendo molto, diciamo, succosi, aiutano a evitare la disidratazione del nostro corpo. Poi abbiamo l'ananas, che è un frutto esotico, miglior alleato per mantenere la pancia piatta. Infatti con il suo, diciamo, contenuto di bromelina assorbe molti grassi alimentari. Poi abbiamo le carote, che per eccellenza, diciamo, sappiamo che sono molto utili per la pelle e per gli occhi, quindi per chi vuole abbondarsi, le carote stimolano molto la melanina, quindi mangiate carote, per voi donne questo. I cetrioli, che contengono acido tartarico e impedisce quindi di far depositare molti grassi nel nostro organismo. L'anguria e i frutti di bosco. E infine le melanzane, che considerate, diciamo, sono considerati depurativi per l'organismo, e la buona presenza di potassio e di altri minerali le conferisce proprietà rimineralizzanti e ricostituenti. Infine, per chi vuole bere spesso, oltre che l'acqua ovviamente, è consigliabile anche il tè verde, che seppur ricco di ossidanti, di prima mattina è molto ricco di sostanze energizzanti. Quindi per chi ha preso appunti, da domani seguite questi consigli e la vostra estate sarà molto energica. Ma noi continuiamo con la nostra classifica, e per chi volesse ascoltarci può farlo sempre su www.crmpiradio.it, dove potrete anche vedere me in streaming, oppure inviarci un sms al 335-5637-251, telefonare allo 0921-923292, oppure diventare fan della nostra pagina Facebook CRM Happy Radio. Quindi siamo alla posizione numero 13 e andiamo avanti. 13. And chocolate candles, it's time to live it up. Oh, horse and carriage ride round the villa and rock chinchillas. Girl, I ain't going nowhere. Sit here and play cops and robbers down by the moonlight. Sunrise, time to go. Grab your phone, take some pictures. Love in the modern times. Thank you.

Ma continuiamo sempre con la nostra bella musica. Siamo alla posizione numero 11, sempre qui, sempre a CRM Speedy Top con Fabio Di Liberto. Vai con la posizione 11. for my love, just to hear his smile. The world is out if you touch her love. The world is out if you touch her love. The world is out if you touch her love. The world is if you touch her love. The world is out if you touch her love. The world is out if you touch her love. The world is out if you touch her love. The world is if you touch her love. Come on, show us love. Ci siamo qua, siamo sempre qui su CRM Speedy Top. Per chi ancora magari volesse farsi una vacanzina, perché sappiamo che seppur la crisi sia ancora viva, il desiderio di trascorrere qualche giorno di relax ovviamente c'è sempre. E quindi si corre sempre alla ricerca di quella vacanza, di quella meta un po' low cost, cioè di basso costo, per appunto non svuotare del tutto il portafogli. E come spesso succede, magari le varie radio, giornali si attrezzano per fare magari una lista di mete low cost, e anche noi di CRM Happy Radio abbiamo fatto una sorta di lista che indicasse ai nostri ascoltatori magari le mete più appunto di costo inferiore. Allora abbiamo la Grecia, la Croazia e il Montenegro, per adesso sono tra le mete economiche più gettonate e anche diciamo le più economiche. Ma per chi non volesse spostarsi fuori dall'Italia, seppur la Riviera Romagnola sia da sempre stata famosa per la sua inaccessibilità a livello di costi, ecco, quest'anno anche lì la crisi si fa viva e quindi le sue spiagge sono accessibili anche ad un budget limitato. Se ovviamente la destinazione scelta è raggiungibile utilizzando l'auto, è bene utilizzare un minor numero di auto, magari partire con un'auto, massimo due, e dividere quindi i costi del carburante. Per quanto riguarda mete da raggiungere utilizzando mezzi quali aerei, treni, ovviamente ci sono molti siti che si occupano di comparare i prezzi, ma per quanto riguarda i treni veri e propri, c'è Trenitalia e Italo che momentaneamente propongono dei posti limitati per alcune mete italiane a prezzi veramente scontatissimi. Per quanto riguarda sempre noi giovani, magari sarò di parte sicuramente, la meta per adesso è Cervia, che è una località che, oltre ad offrire svago e divertimento, è anche una località per adesso poco costosa. Addirittura dall'articolo si evince che in mezza pensione si paga 100 euro a notte all'incirca, quindi molto molto buona, molto conveniente. E per chi invece volesse approfondire un po' la nostra Sicilia, quindi il sud e la Sicilia, tra le mete più consigliate vi è Porto Palo in provincia di Siracusa e anche Giardini Naxos, San Leone, ma ovviamente anche per chi volesse venire qui a Cefalù troverà sempre la bella spiaggia, ma troverà anche noi di CRM Piradio, che magari inizieremo tra qualche giorno con gli intrattenimenti nei lidi. Ma continuiamo con la bella musica. Noi siamo sempre alla classifica e siamo alla posizione numero 9.

poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Max Gazzè, Max Gazzè sotto casa. Mentre lui è sotto casa, io poco fa sceglievo la musica e ho dimenticato il microfono aperto. Quindi magari qualcuno avrà sentito la prossima canzone. Spero di no. Comunque, sotto casa, il tour che sta per partire con sempre ovviamente con Max Gazzè. Ieri ha fatto tappa al Giffoni Film Festival, che continua ad offrire un cartellone di appuntamenti a corredo del programma cinematografico del Festival del Cinema per Ragazzi. Gazzè è tornato nel Salernitano a pochi giorni dalle riprese del suo ultimo videoclip I tuoi maledettissimi impegni, che sicuramente conoscerete. Videoclip girato all'Università degli Studi di Salerno con la regia di Duccio Forzano. Ad un'intervista Max Gazzè risponde che si è detto fiducioso della fine della crisi discografica, anche se ai giornalisti questa sua affermazione è sembrata un po' ironica. Come battuta sui talent, che non poteva mancare, ha detto: è importante e necessario che produttori e discografici credano realmente nei progetti discografici. Non sono contro i talent, ma i produttori devono avere la coscienza di portare avanti i ragazzi in un percorso completo. E effettivamente con lui a sostenere questa idea è anche Elio, sempre qui ai Giffoni Film Festival. Comunque noi continuiamo con la bella musica. Effettivamente Max Gazzè in queste sue ultime canzoni è molto più pimpante rispetto a quelle precedenti. Speriamo continui così. Veramente due belle canzoni, due bei videoclip. Andateli a vedere sul canale ufficiale del cantante su YouTube. E intanto noi continuiamo con la posizione numero 4, sempre qui a CRM Radio, sperando che stavolta chiuda il microfono. Intanto ricordo che ci potete ascoltare sempre su www.crmpiradio.it oppure tramite le nostre frequenze FM 101.4 e interagire con noi tramite anche la pagina Facebook CRM Happy Radio. Continuiamo con la posizione numero 4. 4. Puoi riprendermi. Odio ecstasy. Now your desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Tu che mi dai vita completamente, calmami di corpo, pretendimi. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore, stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me, up to ecstasy. Fino all'estasi, up to ecstasy. Fino all'estasi, Eros Ramazzotti, ultimo brano, ultimo traguardo. Infatti Eros Ramazzotti con il videoclip Fino all'estasi ha raggiunto 2 milioni di click, pensate. Questo duetto con Nicole Scherzinger, se così dovesse pronunciarsi, mi scuso eventualmente. Eros ha scritto addirittura un messaggio: 2 milioni di click su Twitter, 2 milioni di grazie per tutti appunto coloro che hanno cliccato. Il cantante è anche da poco approdato sulla nota applicazione Instagram. Domenica è stato ospite del matrimonio di Tina Turner in Svizzera. Dopo il galà della Croce Rossa del 2 agosto, per chi volesse andarlo ad ascoltare, ma soprattutto a vedere, tornerà live da settembre con 3 concerti fissati all'Arena di Verona. Grande Eros Ramazzotti, grande voce, grande cantautore italiano. Ma noi continuiamo, siamo quasi alla fine della nostra classifica. Siamo alla posizione numero 3. I'll take my time, let the tears fall down from my face, wash the pain away. We're all speeding, lost in this race, but my heart's in a hearse. Can we put it in reverse, babe? 'Cause I can't even feel the drum and bass. It's drowned out by the beat my heart makes. I hear that song, but something is wrong. My mind's a million miles away. Oh, everybody's gone to the floor. Maybe I don't wanna dance anymore. Don't wanna dance anymore. How can you dance the pain away? How can you dance the pain away? Oh, dance the pain away. How can you dance the pain away? How can you dance the pain away? How can you dance the pain away? Oh, dance the pain away. I can dance the pain away. Touch that dial, I'm changing the station. 'Cause I can't smile like everyone else. Play my sad song in heavy rotation. Trying to save myself. I can't even feel the drum and bass. It's drowned out by the beat my heart makes. I hear that song, but something is wrong. My mind's a million miles away. Oh, everybody's gone to the floor. Maybe I don't wanna dance anymore. How can you dance the pain away? How can you dance the pain away? Oh, dance the pain away. I can't dance the pain away. I can't dance. bene, siamo quasi alla fine del programma. Spero di non avervi annoiato e ovviamente ci risentiamo giovedì sempre dalle 15 alle 17, anche se amici ci saranno delle sorprese come ho già detto, quindi probabilmente il nostro programma verrà spostato in mattinata, vi faremo ovviamente sapere quando. E intanto in questa calda estate spero per voi che le vacanze possano rilassarvi in modo tale da poter ripartire carichi poi non appena tornerete al lavoro. E ovviamente noi vi aiutiamo sempre, noi di CRM vi aiutiamo sempre a farvi rilassare, a farvi divertire con la nostra musica, con la migliore musica. Infatti il mio programma appunto si occupa di classifiche musicali, brani più ascoltati, brani più ballati. E siamo alla posizione numero 2, questo è Francesco Rossi con Paper Aeroplane. Trying to spell your name. up down, there it goes. Hey, they're all night. It hasn't flown several seas to you, but it's on its way. It goes through the hands and someone else to find you, girl. Cause it. Siamo in conclusione con Speedy Top. Il brano questa settimana, in primo della settimana, è tratto da un disco intitolato Gioia, omonimo del brano Se si potesse non morire. Sicuramente già avete capito di chi parlo. Gruppo che è molto momentaneamente molto in relax, ma impegnato da settembre, a partire da settembre, in molti tour in tutta Italia. Parlo dei Moda. Il brano Dimmelo, brano appunto già tratto dal disco Gioia, e il gruppo ha salutato i suoi fan su Twitter scrivendo dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, insomma un susseguirsi di dimmelo per salutare i suoi fan e per ringraziarli. Loro ringraziano i fan, io ringrazio tutti gli amici ascoltatori anche, che anche quest'oggi hanno voluto seguire il mio programma, che andrà in onda sicuramente in agosto di mattina. Vi ringrazio tutti, vi auguro un buon pomeriggio, buona estate e spero di non avervi annoiato. E quindi terminiamo con la nostra classifica. Questo è il primo brano della settimana, il brano più ascoltato, più trasmesso in radio. Parlo dei Moda, di nuovo, Dimmelo. Per voi qui Fabio Di Liberto, alla prossima, buon pomeriggio, buon proseguimento. Il disco più trasmesso della settimana su CRM Happy Radio, la numero uno della Speedy Top. Non mi capisco, perdo il controllo, faccio paura addirittura anche a me stesso. Ti trovo dentro ogni ricordo, è come un pugno che fa male. Male di brutto, inerme incasso, e mi convinco un'altra volta che non è finito tutto. Non cancellarmi, piuttosto dammi almeno un'ora per parlarti e per sfogarmi. Non serve a niente, me l'hai già detto, ma abbi il coraggio di guardarmi dritto dentro agli occhi. Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dove posso andare adesso? Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, per dimenticare. Ci sarà un posto dove l'aria non parla di te? Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dimmelo. Vorrei toccarti e respirarti vicino ai punti più sensibili e sentirti gridare forte, non per dolore, ma dal piacere, dalla voglia di fare l'amore, di farlo bene, senza paura più del tempo di qualcuno che ci possa separare. Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dove posso andare adesso? Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, per dimenticare. Ci sarà un posto dove l'aria non parla di te? Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dimmelo. dai, non mi